E ciao, benvenuti alle Deep Type. Questa volta ci tuffiamo in un argomento affascinante, le api concettuali. Interessante, sì. Ho portato con me alcune ricerche accademiche degli anni 90. Ah, davvero? Sembra quasi di dover decifrare una mappa del tesoro, Eh sì, è interessante notare come queste ricerche siano ancora attuali a distanza di decenni. no? Giusto. Le mappe concettuali ci permettono di creare rappresentazioni visive di idee chiave e delle loro relazioni. Esatto. E le fonti che mi ha fornito lo sottolineano. Non si tratta solo di creare bei diagrammi, ma di interagire attivamente con un argomento e sbloccare una comprensione più profonda. Tanto la domanda è se si tratta solo di prendere appunti in modo creativo o c'è qualcosa di più? Questo è quello che scopriremo oggi. Una domanda fondamentale. E a giudicare da queste ricerche, la risposta è un sonoro sì. Gli Va bene. studiosi evidenziano come le mappe concettuali siano uno strumento per un apprendimento significativo. Sai cosa trovo davvero interessante? Una delle fonti descrive le mappe concettuali come idiosincratiche. Ah sì. Cioè, ogni mappa è un'espressione unica della tua comprensione, Interessante. come un'impronta digitale della tua conoscenza. Bellissimo. Questo dimostra come non si tratti di trovare la risposta giusta, Oh già. ma di costruire attivamente la propria comprensione di un argomento in modo visivo. Certo. Ed è proprio in questo processo che avviene la magia. Quindi, come funziona nella pratica? Le fonti ci forniscono una guida passo passo per la creazione di una mappa concettuale. Ah sì. Il primo passo è identificare i concetti, gli eventi e gli oggetti chiave del materiale su cui stai lavorando, un po' come cercare pepite d'oro in un fiume di informazioni. Esattamente. Questo ti obbliga a riflettere su ciò che è veramente importante, anziché assimilare passivamente tutto. È il primo passo per passare da una conoscenza superficiale a una comprensione più profonda. Poi si sceglie un concetto focale, Giusto. il cuore della mappa, l'idea principale a cui tutto il resto si collega. Nelle fonti viene utilizzato l'esempio della piramide dei bisogni di Maslow. Si potrebbe posizionare autorealizzazione in cima e poi diramare i concetti di supporto. Ed è qui che entra in gioco l'elemento visivo. Certo. Inizi letteralmente a disegnare linee e frecce per mostrare come questi concetti si relazionano tra loro. Eh sì. Sono idee di supporto, forze opposte. Esempi. La mappa diventa una rappresentazione visiva di come tu vedi queste idee connesse. A proposito di connessioni, una fonte parla di crosslink, cioè Gioia. linee che collegano concetti in diverse parti della mappa, rivelando relazioni inaspettate. È come scoprire sentieri nascosti nel proprio pensiero. King Class Link sono spesso il punto in cui si hanno i momenti aha. Possono rivelare intuizioni sorprendenti e approfondire ulteriormente la comprensione. È la dimostrazione di come le mappe concettuali ci aiutino a vedere il quadro E generale. non solo. Hai visto che le fonti usano la teoria dello sviluppo cognitivo di Piaget come esempio di come applicare le mappe concettuali? Ah, interessante. Evidentemente non sono solo uno strumento per la psicologia 101. Esatto, questo dimostra la versatilità delle mappe concettuali. Possono essere utilizzate per qualsiasi materia, dalla storia alla fisica alla scrittura creativa. Caspita. Uno strumento di apprendimento davvero adattabile. Ora, una volta costruita questa incredibile mappa della conoscenza, come si fa a sapere se è valida? Entra in gioco il concetto di E valutazione. come sottolinea una delle fonti, Sì. in questo contesto la valutazione non riguarda i voti, ma la qualità. Ok. Una buona mappa concettuale identifica chiaramente i concetti chiave, mostra relazioni accurate e significative e, hai indovinato, include quei preziosi crosslink. Inizio a notare un tema ricorrente. I crosslink sono davvero le stelle dello spettacolo. Ma la cosa affascinante è che la fonte afferma anche che le mappe sbagliate possono essere preziosi strumenti di apprendimento. Davvero? Davvero. Una mappa che evidenzia idee sbagliate o lacune nella comprensione è preziosa quanto se non di più di una mappa perfetta. Capisco. Ti mostra dove devi concentrare i tuoi sforzi di apprendimento. Quindi non si tratta di fare tutto giusto al primo tentativo, ma di utilizzare la mappa come strumento per l'autoriflessione e l'apprendimento continuo. Precisamente. Ed è qui che entra in gioco il feedback. Le Giusto. fonti sottolineano quanto sia utile ricevere un feedback costruttivo sulle proprie mappe concettuali. Permette di vedere i propri punti ciechi e di individuare le aree in cui la propria comprensione è ancora incerta. Quindi questa storia delle mappe concettuali è un viaggio, non una destinazione, giusto? Hai colto nel Va segno. bene. Ed è un viaggio che può portare a incredibili scoperte sia sull'argomento che si sta mappando, sia sul proprio processo di apprendimento. Mi viene voglia di prendere carta e penna e iniziare subito a mappare. Ma prima di lasciarci trasportare dai colori, dalle forme e dalle connessioni, vorrei approfondire un aspetto. Le fonti menzionano l'utilizzo delle mappe concettuali per la pianificazione di compiti o presentazioni. Come Ah. funziona? Sembra che si concentrino soprattutto sulla comprensione dei concetti, non necessariamente sull'organizzazione di compiti o idee. Ottima domanda. E le fonti affrontano questo aspetto in modo diretto. pensarci, quando si pianifica un compito, si stanno essenzialmente mappando i concetti chiave, le argomentazioni e le prove a supporto che si vogliono includere. Si sta creando una roadmap visiva del proprio processo di pensiero. Capisco. Quindi invece di elencare i concetti, si potrebbero avere elementi come introduzione, argomentazione principale, prova a supporto. Certo, tutti collegati in modo logico. Esattamente. E lo stesso principio si applica alla presentazione. Ah, cool. Le mappe concettuali possono essere utilizzate per creare una scaletta visiva dei punti chiave, aiutandoti a rimanere organizzato e a garantire che il messaggio fluisca in modo scorrevole. Geniale. Inizio a capire come le mappe concettuali possano essere utilizzate in tanti contesti diversi. Sì. Sono come un coltellino svizzero per il cervello. Esatto. Ma se allarghiamo un po' la prospettiva, qual è il quadro generale? Perché le persone dovrebbero interessarsi alle mappe concettuali? Questa è la domanda da $1,000,000. E le fonti offrono una risposta convincente. Non si tratta solo di imparare una materia specifica. Si tratta di sviluppare capacità di pensiero essenziali che possono essere utili in tutti gli ambiti della vita. Ad esempio. E per cominciare, le mappe concettuali ti aiutano a diventare uno studente più attivo e coinvolto. Non ti limiti ad assimilare passivamente le informazioni, ma le elabori, attivamente creando connessioni e costruendo la tua comprensione. Quindi è come una palestra per il cervello, basta con i pigri mentali. Esatto. E le fonti suggeriscono che queste capacità si trasferiscono anche al di fuori dell'aula. Ah, davvero? Sostengono che le mappe concettuali possono aiutarti a diventare un problem solver migliore, un pensatore più creativo e un comunicatore più efficace. Affermazioni piuttosto importanti, ma in che modo le mappe concettuali portano a tutti questi benefici? E pensa al processo in sé. Le mappe concettuali ti incoraggiano a scomporre le informazioni complesse in blocchi più piccoli e gestibili. Identificare i concetti chiave e comprenderne le relazioni. Sì. Vedere il quadro generale e creare connessioni tra idee apparentemente disparate. Mm. Organizzare i tuoi pensieri in modo logico e coerente. Okay. Comunicare le tue idee in modo chiaro e efficace. Wow, detto così sembra davvero la ricetta per il successo in qualsiasi campo. È come se le mappe concettuali ti dessero gli strumenti per pensare in modo più critico, creativo e strategico. Esatto. Ed è un'abilità sempre più preziosa nel mondo di oggi. Giusto. Siamo bombardati da informazioni provenienti da tutte le direzioni ed è più importante che mai saper setacciare il rumore, individuare ciò che è importante e dare un senso a tutto. Le mappe concettuali possono aiutarti a fare proprio questo. È come se le mappe concettuali ti dessero i superpoteri mentali per navigare nell'era dell'informazione. Mi piace. È una metafora efficace di ciò che le mappe concettuali possono offrire. Eh sì. Non si tratta solo di memorizzare fatti, ma di sviluppare l'agilità e la flessibilità mentale necessarie per prosperare in un mondo in continuo cambiamento e complessità. Ok, mi hai convinto. Le mappe concettuali sono più di una semplice tecnica di studio, sono un modo di pensare, un modo di affrontare il mondo. E la parte migliore è che si tratta di un'abilità che chiunque può imparare e da cui può trarre beneficio. Non servono particolari corsi di formazione o attrezzature, bastano carta penna e una mente curiosa. A proposito di menti curiose, scommetto che i nostri ascoltatori non vedono l'ora di provare. E tu? Cosa ti ha colpito di più di questa immersione nelle mappe concettuali? Per me il punto fondamentale è che le mappe concettuali sono più di una semplice tecnica, sono un cambio di mentalità. Si tratta di approcciare l'apprendimento con curiosità, cercando attivamente le connessioni e abbracciando il processo disordinato della costruzione della conoscenza. Detto magnificamente. Credo che sia la conclusione perfetta per la prima parte della nostra immersione. Sì. Torneremo presto per esplorare ulteriormente questo strumento di apprendimento dinamico. Benissimo. Riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta delle mappe concettuali. Prima ci siamo soffermati sull'importanza del feedback. Giusto. In questo processo mi ha fatto pensare ad alcuni esempi specifici tratti dalle fonti che abbiamo analizzato. Ricordi l'esempio della piramide dei bisogni di Maslow? Certo. Riesco già a immaginare una mappa concettuale con un'autorealizzazione in cima che brilla luminosa e tutti quei bisogni essenziali che si diravano sotto. Esatto. Ma immaginiamo che creando questa mappa tu abbia accidentalmente posizionato bisogni di stima sopra amore e appartenenza. Questo errore apparentemente piccolo può rivelare molto sulla tua attuale comprensione della teoria di Maslow. È un segnale per rivisitare con la sezione del materiale e chiarire le connessioni. Interessante. Non si tratta di sbagliare, ma di usare la mappa come strumento per identificare le aree dove è necessario approfondire. Mi piace come queste fonti sottolineino che la creazione di una mappa concettuale è un processo iterativo. Sì. Puoi rivedere e perfezionare le tue mappe man mano che la tua comprensione cresce. Assolutamente. Ed è qui che emerge la vera potenza delle mappe concettuali. Giusto. Non sono una rappresentazione statica della conoscenza, ma uno strumento dinamico che si evolve con il tuo percorso di apprendimento. A proposito di evoluzione, le fonti menzionano diversi tipi di mappe concettuali. Ah sì. gerarchiche a ragno a diagramma di flusso. Sì. C'è un motivo per questa varietà. Quando è meglio usarne una piuttosto che un'altra? Ottima osservazione. La scelta del tipo di mappa dipende dall'obiettivo e dalla natura delle informazioni che vuoi rappresentare. Ad esempio, una mappa gerarchica, come quella che abbiamo immaginato per la piramide di Maslow, è ideale per concetti con una chiara struttura gerarchica. Quindi per argomenti come la classificazione degli esseri viventi in biologia o la struttura di un'organizzazione aziendale. Esattamente. Mentre una mappa a ragno con il concetto principale al centro e le idee collegate che si irradiano come raggi potrebbe essere più adatta per esplorare le diverse sfaccettature di un singolo concetto o per brainstorming. E le mappe a diagramma di flusso? Immagino siano utili per rappresentare processi con una sequenza precisa di passaggi? Proprio così. Pensa ad un algoritmo in informatica o le fasi di un esperimento scientifico. Mm-hmm. La mappa a diagramma di flusso ti permette di visualizzare il flusso logico e le relazioni di causa-effetto tra le diverse fasi. Questa flessibilità è fantastica. Rende le mappe concettuali uno strumento davvero versatile. Sì. Ma al di là della struttura, qual è il vero valore aggiunto di questo approccio? Cosa lo rende diverso da un semplice schema o da una lista di punti? La differenza fondamentale sta nel processo cognitivo che si attiva durante la creazione di una mappa concettuale. In che senso? Non ti limiti a trascrivere informazioni, ma le elabori attivamente cercando connessioni, gerarchie e relazioni tra i concetti. Quindi è come se stessi costruendo una rappresentazione mentale, tridimensionale dell'argomento, anziché una semplice lista piatta di informazioni. Esattamente. E questa rappresentazione visiva stimola il tuo cervello a creare connessioni neurali più forti, favorendo la memorizzazione e la comprensione profonda. Inoltre, il processo di creazione della mappa stessa ti obbliga a confrontarti con le tue conoscenze, individuando eventuali lacune o idee sbagliate. Insomma, non si tratta solo di imparare di più, ma di imparare meglio. Assolutamente. E questo è un aspetto cruciale in un mondo in cui siamo sommersi da informazioni provenienti da ogni direzione. Giusto. Le mappe concettuali ci offrono uno strumento per dare un senso a questa complessità, per organizzare il caos e trasformarlo in conoscenza strutturata. Parlando di complessità, le fonti menzionano l'uso delle mappe concettuali per affrontare problemi complessi, non solo per apprendere nuovi concetti. Come funziona in questo caso? Immagina di dover risolvere un problema al lavoro o nella vita personale. Okay. Potresti iniziare creando una mappa concettuale che rappresenti il problema stesso, identificando le cause, gli effetti, le possibili soluzioni. Quindi la mappa diventa uno strumento per scomporre un problema complesso in parti più gestibili. Sì. Analizzando le relazioni tra i diversi elementi. Esatto. E come abbiamo visto prima, la visualizzazione di queste relazioni può far emergere connessioni inaspettate e soluzioni creative che non avresti considerato altrimenti. Mi viene in mente l'esempio di un team di ingegneri che usa una mappa concettuale per progettare un nuovo prodotto. Ah, sì. Potrebbero mappare le diverse funzionalità, i vincoli tecnici, le esigenze degli utenti, creando una visione d'insieme che li aiuta a prendere decisioni più informate. Perfetto. Ho ancora un gruppo di medici che utilizza una mappa concettuale per analizzare un caso clinico complesso, mettendo in relazione i sintomi, i risultati degli esami e le possibili diagnosi. Insomma, le mappe concettuali si rivelano uno strumento potente per affrontare la complessità in diversi ambiti, dalla risoluzione di problemi alla progettazione all'analisi di situazioni complesse. E non dimentichiamo il loro potenziale per stimolare la creatività. La visualizzazione delle connessioni tra idee diverse può innescare nuove associazioni mentali, portando a intuizioni innovative e soluzioni originali. Hai ragione. In fondo l'innovazione nasce spesso dalla capacità di connettere idee apparentemente distanti tra loro. Le mappe concettuali ci offrono un metodo per allenare questa capacità, di diventare connettori di idee e generare soluzioni creative. Esattamente. E questo ci riporta al concetto di metacognizione di cui abbiamo parlato prima. Giusto. La capacità di riflettere sul proprio processo di pensiero. Le map concettuali ci aiutano a diventare più consapevoli di come pensiamo, di come elaboriamo le informazioni e di come generiamo nuove idee. È affascinante. Quindi non si tratta solo di imparare, ma di imparare a sviluppare una maggiore consapevolezza del nostro processo di apprendimento e di come possiamo migliorarlo. Esatto. E questa è un'abilità preziosa in un mondo in continuo cambiamento, dove la capacità di adattarsi, di imparare cose nuove e di risolvere problemi in modo creativo è fondamentale per il successo. Credo che questo sia un ottimo punto di partenza per la prossima parte della nostra immersione. Cosa ne pensi? Sono d'accordo. C'è ancora molto da esplorare nel mondo delle mappe concettuali e non vedo l'ora di continuare il nostro viaggio. Eccoci di ritorno per la parte finale della nostra immersione nel mondo delle mappe concettuali. Ripensando alle fonti che abbiamo analizzato, mi ha colpito come questo metodo offra una soluzione. Ah, sì. Ad un problema che tutti affrontiamo quotidianamente. Vale. La sovrabbondanza di informazioni. Un'osservazione molto interessante. È vero, oggi è facilissimo perdersi in un mare di dati, articoli e opinioni. Già. Le mappe concettuali ci offrono una struttura, un modo per organizzare e dare priorità a tutte queste informazioni. È come trasformare uno tsunami di informazioni in un ruscello gestibile. Credo sia questo a rendere questa tecnica così attraente anche al di fuori dell'ambito accademico. Sì. Uno strumento per dare un senso alla complessità. Precisamente. Per questo l'enfasi che le fonti pongono sull'apprendimento significativo è così importante. Non si tratta di memorizzare nozioni isolate, ma di comprenderne le connessioni. Giusto. Il perché dietro il cosa. E la mappa concettuale ti obbliga a rendere esplicite queste connessioni, giusto? Non puoi limitarti ad assorbire passivamente le informazioni. Certo. Devi interagire attivamente con esse e capire come i pezzi del puzzle si incastrano tra loro. Esatto. Stai creando una rappresentazione visiva della tua comprensione e nel farlo la stai approfondendo e rendendola più duratura. Quindi non si tratta solo di imparare di più. Giusto. Ad imparare meglio. Assolutamente. E penso che questo messaggio risuoni con chiunque si sia mai sentito sopraffatto dalle informazioni, che si tratti di studio-lavoro o semplicemente della vita quotidiana. È quasi come se la mappa concettuale fosse una forma di empowerment. Mm. Ci fornisce gli strumenti per assumere il controllo del nostro apprendimento e della nostra comprensione. Ti piace molto questa definizione? Coglie davvero l'essenza di ciò che le mappe concettuali possono offrire. Sì. Non sono un'attività passiva, ma un processo attivo di costruzione della conoscenza. E questo è qualcosa da cui tutti possiamo trarre beneficio indipendentemente dal nostro background o dalla nostra esperienza. Non potrei essere più d'accordo. Che tu sia uno studente alle prese con gli esami, un professionista che si confronta con un progetto complesso o semplicemente una persona che ama imparare cose nuove. Mm. La mappa concettuale può essere uno strumento incredibilmente prezioso nel tuo arsenale. Eccoci giunti alla fine della nostra immersione nel mondo delle mappe concettuali. Cosa ti porti a casa da questa esperienza? C'è un aspetto in particolare che ti ha colpito e che pensi di applicare nella tua vita? Per me la cosa più importante è che le mappe concettuali non sono solo una tecnica, ma un vero e proprio cambio di mentalità. Si tratta di approcciare l'apprendimento con curiosità, cercando attivamente le connessioni e accettando il processo a volte disordinato della costruzione della conoscenza. Hai riassunto in modo perfetto il messaggio chiave di questa puntata. E a tutti voi che ci avete seguito, vi incoraggiamo a prendere carta e penna e iniziare a mappare la vostra strada verso una comprensione più profonda. Sì. Potreste rimanere sorpresi dalle connessioni che scoprirete e dalle intuizioni che otterrete. Buona mappatura a tutti e alla prossima immersione nel mondo della conoscenza. Arrivederci.